Focus Economia. Con Deborah Rosciani. E puntuali come tutte le sere, eccoci di nuovo insieme per una nuova puntata di Focus Economia. Buonasera da Deborah Rosciani, questa sera sono io a tenervi compagnia per il resoconto della giornata economico-finanziaria. Allora, cominciamo con la borsa che oggi sta archiviando una seduta molto positiva, quasi un rialzo di 2 punti di Piazza Affari, che quindi recupera tutto quello che ha perso ieri e fa anche qualcosa di meglio. Ad incoraggiare gli acquisti, gli ordini d'acquisto appunto fra gli investitori, anche le altre piazze europee vanno bene, sta guadagnando 1,5 punti Parigi, Francoforte più 1,18, Londra in rialzo di 1 punto, bene anche Wall Street che sta guadagnando circa 0,5 percentuale più 0,8 sul Nasdaq. Sono stati proprio alcuni dati macro che sono arrivati dagli Stati Uniti, particolarmente il dato sull'inflazione, che qualcuno dice fosse nell'ordine appunto delle attese di mercato, ma in realtà a quanto pare il dato è stato migliore delle attese di mercato, perché appunto ha spinto gli ordini d'acquisto, come vi dicevo, fra il mercato azionario. Quindi ne parleremo, naturalmente faremo un esame dettagliato della seduta di borsa. In questo momento a Piazza Affari ci sono solo 3 titoli negativi, sono Fiat, Salvatore Ferragamo e Mediaset, mentre sono in forte rialzo i titoli della Galassia Enel più 4,14, Saipem più 4%, perché qua Sole 24 Ore stamattina indicava che Eni potrebbe essere pronto a cedere la sua quota in Saipem, e naturalmente la speculazione è partita. Però vedo oggi acquisti su tutti i titoli che tradizionalmente vengono definiti appartenenti al settore difensivo. Comunque sono in recupero anche le banche, tutto bene. Non è andata bene invece oggi a una società che si è quotata, ed è una società piuttosto famosa perché è la società che controlla il Blue Note, il tempio del jazz milanese. Il titolo è in ribasso in questo momento di quasi 5 punti, si è quotato all'AIM, al listino appunto di queste società piccola capitalizzazione. Possono investire solo investitori istituzionali, forse questo ha penalizzato, perché magari gli amanti di jazz, investitori piccoli, privati, retail, avrebbero avuto piacere a poter così prendersi un piccolo lotto di questo gruppo. In ogni caso questa è la 50ª società dell'AIM che si quota quest'anno, quindi mercato molto vivace. Parleremo anche appunto dei debutti recenti della borsa, di quelli che sono andate bene e di quelli che sono andati meno bene, e delle società che hanno anche rinunciato alla quotazione perché non ritengono favorevoli le condizioni di mercato. E poi per quello che riguarda invece le questioni macroeconomiche, oggi Piercarlo Padoan, ministro dell'economia italiano, ha avuto il suo ennesimo debutto, perché in realtà è qua dall'inizio luglio che stiamo facendo debutti per quello che riguarda la presidenza italiana del semestre appunto europeo. Oggi Padoan ha parlato davanti alla Commissione Affari economici e monetari dell'Europarlamento, proprio in qualità di presidente di turno dell'Ecofin, e ha dato tante indicazioni. Ha detto che le politiche per l'occupazione e la crescita sono centrali per l'Unione Europea, e una crescita sostenuta è una condizione per la sostenibilità finanziaria e per le finanze pubbliche. Poi chiaramente un commento sull'Italia, che ha ricordato essere un paese a bassa crescita e alto debito, lo sappiamo bene, e quindi il ministro del Tesoro ha detto: possiamo partire solo da questi elementi, ed è in tali margini che la nostra strategia combina 2 elementi, un programma di riforme forte e aggressivo e misure di sostegno a famiglie e imprese. Commenteremo naturalmente questa giornata di Padoan a Bruxelles più tardi con il corrispondente di Radio Cori, Il Sole 24 Ore, Antonio Poglio Salimbeni. Altra parte dell'economia italiana che va male, molto male, oggi un nuovo grido d'allarme è stato lanciato a Roma dal presidente dell'Associazione dei Costruttori Italiani, Paolo Buzzetti. Dall'assemblea annuale ha lanciato un messaggio dirompente, provocatorio a dir poco: senza ripresa alle imprese associate all'anno non resta che una richiesta, un decreto su come chiudere tutte le nostre imprese. Pensate che da quando è iniziata la crisi, quindi si calcola dal 2008, hanno chiuso in Italia 14.000 aziende nel settore edile. La crisi è drammatica. Il presidente del Lanci oggi ha rinnovato l'invito a lanciare un vero e proprio piano Marshall per le infrastrutture e naturalmente commenteremo tutto questo proprio con lo stesso Buzzetti a partire dalle 18.15. Un'altra vicenda che, dalla quale si torna a parlare ieri, l'abbiamo commentata un po' anche a Cuore Denari ieri mattina con Nicoletta Carbone. A partire dalle 11 abbiamo parlato di vacanze e abbiamo parlato ancora una volta di tutte quelle località che sono messe un po' in crisi dalle previsioni meteorologiche che appunto qualche volta non ci azzeccano, per cui i meteorologi, ecco qua, che anticipano che ci sarà cattivo tempo su molte località, poi in realtà tutta questa devastante situazione non si materializza, non si manifesta, però le persone poi rinunciano magari proprio all'ultimo momento a farsi il weekend al mare e chiaramente compromettono gli affari di stabilimenti balneari, di tutti quei appunto locali che sono sulle nostre coste. E dall'Emilia Romagna arriva addirittura una iniziativa molto forte, quella di voler denunciare tutti coloro che appunto fanno previsioni meteo soprattutto sui siti internet, non si parla di quelli più famosi che vanno in televisione, ma poi ne parleremo proprio con un esponente del settore alberghiero dell'Emilia Romagna. Anche stasera dunque non ci facciamo mancare nulla. 349-238-6666 se volete commentare con noi i fatti del giorno. Adesso abbiamo tantissime notizie in breve. Allora, materie prime come sempre in apertura. Le quotazioni dell'oro oggi ancora stabili sui mercati asiatici. A partire da stamattina appunto il lingotto con consegna immediata era scambiato a $1,312 l'once, esattamente come ieri. Per quello che riguarda il petrolio invece oggi abbiamo a New York un leggero calo a $104,25 al barile. I due dati oggi diffusi dagli Stati Uniti che erano particolarmente attesi, anche se poi in realtà particolarmente attesa è la stagione delle trimestrali. Oggi hanno rassegnato i dati due colossi dell'economia a stelle e strisce e altri due colossi rassegneranno i risultati stasera a mercati chiusi. Poi ne parleremo. Intanto, per quello che riguarda i dati macro, abbiamo avuto il dato sull'inflazione americana che a giugno è salita dello 0,3%. L'indice core, cioè quello depurato dalla componente alimentare ed energetica, è salito invece 0,1%, pare che il dato sia in linea con le attese degli analisti. Negli Stati Uniti oggi è stato monitorato anche l'andamento del comparto immobiliare perché le vendite di case esistenti in giugno sono salite del 2,6% ad un tasso annualizzato di circa 5 milioni di unità. In questo caso il dato buono, il livello è il più alto degli ultimi 8 mesi. Le trimestrali, allora stasera mercati chiusi conosceremo l'andamento dei conti di questo primo semestre del 2014 per Apple e per Microsoft, per cui abbiamo il settore tecnologico che ci racconterà come vanno le cose. Nel frattempo oggi invece è il largo consumo, il settore alimentare appunto ad aver comunicato i suoi risultati. Abbiamo intanto i dati di Coca-Cola che ha visto un aumento dei volumi di vendite delle bibite, più 3% a livello globale, ma la società delle bollicine ha visto calare utile e fatturato perché i profitti in questo periodo, nel secondo trimestre del 2006, sono stati di 2 miliardi e 600 milioni di euro, c'è pure da lamentarsi, e quindi 58 centesimi per azione, ma c'è stato appunto un calo del 3% rispetto allo stesso periodo di un anno fa. Escludendo le voci straordinarie, il profitto è salito, comunque il fatturato è sceso dell'1% a 12 miliardi e mezzo. Gli analisti si attendevano utile per azione e un giro d'affari un po' più sostenuto di circa 18,8 miliardi. E a fare il paio a Coca-Cola ci sono i dati di McDonald's, perché l'hamburger chiude il secondo trimestre di quest'anno con un utile netto in calo dell'1% a $1,390 milioni. Un trend, secondo la società, che non migliorerà a breve fra la crescente concorrenza e, qua io ci metterei anche un pochino per fortuna perché meno male che gli americani cominciano ad alimentarsi un po' meglio, la spinta salutista dei consumatori. I tentativi di McDonald's di rivedere il menù e migliorare il servizio a quanto pare non hanno ancora dato risultati. Andiamo ad alcuni dati invece che arrivano oggi dall'Europa. Credit Suisse, colosso svizzero bancario, ha chiuso il secondo trimestre dell'anno segnando la perdita più pesante da 6 anni a questa parte, scontando così il maxi patteggiamento da 2 miliardi e 800 milioni di dollari con il fisco americano. Il colosso bancario elvetico mette in bilancio un rosso di 700 milioni di franchi, stiamo parlando di circa 576 milioni di euro. Andiamo in Grecia, dove dopo 6 anni di crisi, durante la quale molti miliardi di euro sono usciti per essere portati in banche all'estero, oggi la Banca Centrale della Grecia ha reso noto che nel primo semestre di quest'anno circa 20 miliardi di quei capitali sono stati rimpatriati tramite l'acquisto di titoli di Stato o di azioni greche. Solo a maggio di quest'anno investitori non residenti hanno riportato nel paese 653 milioni di euro. L'investimento più importante sarebbe stato la partecipazione della società americana Capital Group Companies nell'aumento del capitale dell'Eurobank. Abbiamo parlato a lungo ieri, vi ricorderete, nel nostro primo approfondimento della situazione economica tedesca, stagnazione anche là, comincia a far acqua un po' anche l'economia appunto del paese guidato da Angela Merkel. Oggi si è appresa un'altra statistica molto interessante, perché sembra che ad oltre 20 anni dalla riunificazione la Germania continui a registrare forti divergenze a livello di costi del lavoro fra Est e Ovest. Lo ha annunciato appunto l'Ufficio Federale di Statistica. Nel 2012 il costo per ora lavorata è stato di 23,45 euro nella ex Germania dell'Est, il che sarebbe il 26,6% in meno rispetto ai livelli della ex Germania Ovest, compresa Berlino, che in quel periodo era di quasi 32 euro all'ora. Nella media del paese il costo del lavoro per ora lavorata è stata quindi di 30,70 euro. La divergenza minore fra le due aree del paese si registra nell'amministrazione pubblica. Dopo due trimestri di flessione, abbiamo un dato che qua riguarda complessivamente tutta l'Eurozona. Dopo due trimestri di flessione è tornato a crescere il debito pubblico appunto dell'Eurozona. Nel periodo gennaio-marzo di quest'anno il rapporto debito-PIL è passato dal 92,7% del trimestre precedente al 93,9%, quindi quasi al 94%. L'Italia chiaramente ha uno degli ammontari più alti, il rapporto debito-PIL è al 135,6% e resta secondo solo a quello greco, che è del 174%. Oggi lo spread fra BTP e Bund viaggiava intorno ai 160 punti base. Abbiamo avuto dall'Italia anche il dato sull'inflazione del nostro paese, quindi non c'è stato solamente quello americano. Nel secondo trimestre di quest'anno l'indice dei prezzi al consumo è stato pari dello 0,4%, risulta più basso per le famiglie con la spesa media mensile minore e fino a 6 volte più sostenuto per le famiglie con i più elevati livelli di consumo. Questo naturalmente è stato diffuso dall'Istat questo nuovo monitoraggio. La lieve variazione positiva dei prezzi, che interessa le famiglie con bassi livelli di consumo, dipende soprattutto, dice l'Istat, dall'aumento dei prezzi dei servizi relativi all'abitazione. Intanto però un indice che è piuttosto tenuto in considerazione in Italia, l'indice Nielsen, che misura la fiducia dei consumatori italiani, sarebbe cresciuto di 6 punti nel secondo trimestre di quest'anno. Questo è quanto emerge proprio da questo tradizionale sondaggio che viene effettuato, si chiama Global Consumer Confidence, è compiuto in 60 paesi su oltre 30.000 consumatori online. Dopo l'India, che è cresciuta del 7%, quello dell'Italia è il secondo incremento a livello globale. Due dati che arrivano oggi da Roma e riguardano appunto il bollettino mensile che diffonde l'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, e anche qua abbiamo un quadro in chiaroscuro, perché da una parte abbiamo un forte aumento delle sofferenze bancarie, che a maggio si sono attestate a qualcosa come 168,5 miliardi di euro, e quindi consumatori, imprese che non riescono a rimborsare i loro prestiti, che si incagliano naturalmente nel sistema bancario, sofferenze su sofferenze che a quanto pare a livello di stock continuano continuano ad aumentare. Si riduce però la caduta dei prestiti. A giugno, secondo l'ABI, sono aumentati a 1.842 miliardi di euro, con un calo del 2,2% rispetto al meno 3,1 del mese precedente. Allora, andiamo a sentire qualche dichiarazione anche di oggi, perché altrimenti parlo solo io. Questa mattina firmiamo 24 contratti di sviluppo per 1 miliardo e 400 milioni di euro di investimenti e 25.000 posti di lavoro fra creati o salvaguardati, l'80% al sud. Questo è l'annuncio dato oggi dal primo ministro italiano Matteo Renzi a Palazzo Chigi. Oggi noi presentiamo 24 progetti di 4 contratti di sviluppo, nuovi contratti di sviluppo. Do le cifre: 24 nuovi contratti, 1,4 miliardi di euro di investimenti, 25.000 posti di lavoro tra posti creati o salvaguardati, 80% nelle regioni del sud, nelle 4 regioni dell'obiettivo convergenza, cioè Campania, Calabria, Puglia e Sicilia, e alcune tra le principali aziende interessate, circa la metà, se non ho visto male, sono imprese straniere, gruppi controllati da gruppi, 44% dei programmi di investimento è controllato dai gruppi esteri, e quindi credo che sia un elemento molto significativo di apertura. Eh sì, di imprese che tornano magari ad investire in Italia, però chiaramente Renzi non ha potuto esimersi dal commentare anche il cammino che stanno facendo le riforme in Italia. Per cambiare l'Italia bisogna fare le riforme e le faremo. Sentiamo Renzi. Le immagini alle quali stiamo assistendo in queste ore di qualcuno che vuole bloccare, fermare, ostruire il cammino delle riforme in Italia sono le immagini di chi pensa che si possa continuare ad andare avanti così com'è. Noi abbiamo preso il 41% per poter cambiare finalmente l'Italia, e per cambiare l'Italia occorre fare le riforme, e le faremo, ma occorre anche e soprattutto creare le condizioni per i posti di lavoro, perché le famiglie vedono questo. Le riforme servono a creare i posti di lavoro, i contratti di sviluppo servono a creare posti di lavoro, un clima più familiare per le aziende e più semplice per le aziende, meno burocrazia, giustizia civile più veloce, fisco più semplice, vanno in questa direzione. Il governo italiano è impegnato a testa alta e a viso aperto per raggiungere gli obiettivi che ci siamo dati. E allora, dopo Renzi, ancora una notizia dal mondo sindacale per poi andare dal nostro primo approfondimento di oggi, che chiaramente ci porta a Bruxelles. Se saranno confermati i nuovi criteri per cassa integrazione e mobilità in deroga previsti dalla bozza di decreto ministeriale, dei 148.000 lavoratori coperti da questi strumenti sarebbero a rischio fra i 48.000 e i 65.000. Così oggi il segretario confederale della CGIL, Serena Sorrentino, parlando del restringimento dei requisiti e dei tempi massimi per la deroga. Adesso andiamo a Bruxelles. So che è impegnato in una conferenza stampa, gli chiediamo solo qualche minuto della sua disponibilità. Buonasera ad Antonio Poglio Salimbeni, Radio Corriere, Sole 24 Ore da Bruxelles. Antonio, buonasera. Buonasera a voi. Allora, vorrei far sentire subito ai nostri ascoltatori quello che ha detto il ministro dell'economia Padoan presentando oggi a Bruxelles il programma del semestre italiano al Parlamento europeo: rafforzare gli incentivi a fare riforme, non cambiare le regole ma usarle nel modo migliore. Sentiamo questo passaggio. È giunto il momento di ragionare apertamente e concretamente su quale possa essere la strategia di intervento più efficace per tornare a crescere e promuovere l'occupazione. Questo chiedono i cittadini d'Europa. Il programma di lavoro della Presidenza italiana vuole offrire un contributo concreto all'azione del nuovo Parlamento e della nuova Commissione nel corso del prossimo quinquennio. La strategia 2020 deve essere rifocalizzata sui fattori determinanti per la crescita, in primo luogo il rafforzamento del mercato interno. Va rafforzato inoltre il legame fra strumenti e obiettivi. La Presidenza sosterrà le strategie per il raggiungimento degli obiettivi di Europa 2020, in particolare promuovendo investimenti in capitale umano, ricerca e innovazione, creando condizioni favorevoli per il finanziamento a lungo termine dell'economia reale in settori chiave. Non si tratta di cambiare le regole, ma di usare quelle che già ci sono nel modo migliore e con lungimiranza, in coerenza con tutte le decisioni e gli accordi che negli ultimi anni abbiamo preso in Europa. Un maggior coordinamento delle politiche di riforma nazionale ne potrà aumentare l'efficacia e sfruttare al meglio gli spillover positivi. In questo ambito, rilevanza primaria riveste l'adozione della proposta di cooperazione amministrativa in materia fiscale, che consentirà di incorporare nella legislazione dell'Unione il nuovo standard globale sullo scambio automatico di informazioni finanziarie. Antonio, noi ne abbiamo fatto sentire solo un breve passaggio, ma ti chiedo appunto di raccontarci quali sono stati gli altri punti rilevanti toccati dalla relazione del Ministro dell'Economia italiano, appunto presentando il programma del semestre italiano al Parlamento europeo. Come è stato accolto anche il suo discorso, la sua relazione? Ma intanto vorrei cominciare dicendo che non ci sono state sostanziali novità rispetto al quadro della strategia che il governo italiano tenta di definire e sulla quale tenta di trovare un accordo in Europa, sia per quanto riguarda la flessibilità e l'uso delle regole attuali del patto di stabilità, delle regole sulle politiche di bilancio europee, sia per quanto riguarda il modo di valutare, di trattare la spesa per gli investimenti. Naturalmente Padoan ha parlato anche di unione bancaria, ha parlato di politica monetaria, giudicandola molto accomodante, di necessità di uno sforzo per sostenere la domanda interna dell'Eurozona e dell'intera Unione Europea. Come è stato accolto il discorso di Padoan? Naturalmente sappiamo che le grandi famiglie politiche, i partiti europei presenti al Parlamento sono abbastanza divisi sulla questione della flessibilità. Il Partito Popolare, per esempio, e non soltanto per la presenza dei deputati tedeschi, ci sono delle opinioni non favorevoli, che vedono con sospetto un'apertura alla flessibilità, ma quello che fa testo per la presidenza italiana, ma anche nella discussione politica pubblica e non solo pubblica in Europa, sono le conclusioni del Consiglio di fine giugno, che apre in sostanza un uso flessibile del patto di stabilità, anche se il diavolo sta nei dettagli. Bisogna vedere effettivamente che cosa si intende per flessibilità, ancora non ci siamo nei dettagli. Certo, evidentemente anche per questo motivo che ha usato oggi Padoan toni piuttosto cauti su questo punto. Ha poi anche detto che un paese ha bisogno di 1, 2 o 3 anni per vedere i frutti delle riforme, non solo approvate ma anche attuate. Avrà parlato sicuramente anche dell'Italia. Gli è stato chiesto anche un commento evidentemente sulla questione internazionale che si sta materializzando in queste ore, e cioè anche le nuove sanzioni alla Russia e quelle che potrebbero essere le conseguenze anche sull'economia italiana. Commenti anche sui dati deludenti dell'economia tedesca, che ha detto Padoan suonano come un allarme. Altri temi da segnalare, Antonio? No, direi sostanzialmente no. La cosa più interessante, che ha detto Padoan, è appunto sulla necessità di valutare le riforme strutturali nei paesi, l'Italia ma non solo, alla luce degli effetti positivi che questi hanno sull'intera area europea, che è una visione totalmente diversa da quella prevalsa finora. Certo. Antonio, poi ti lascio. Tu oggi hai segnalato su Radicor una notizia che non ha nulla a che fare con Padoan, però è stata interessante, perché il Fondo di Stabilità Europeo, lo European Financial Stability Facility, l'FSF, oggi ha piazzato sul mercato il suo primo bond a 30 anni per 4 miliardi di euro. È importante questa notizia? È importante nel senso che intanto fa parte di un quadro di finanziamento sul mercato del fondo, di uno dei due fondi salva stati, esatto, come li abbiamo ribattezzati europei, in questi anni. Sì. Dimostra sia la lunga scadenza sia la forte domanda rispetto alla quantità emessa, oltre 6 miliardi rispetto appunto a un'emissione per complessivi 4 miliardi, un forte interesse degli investitori stranieri. Questo significa che sia l'FSE che sia l'ESM, l'European Stability Mechanism, sono due istituzioni finanziarie che trovano, la cui operatività trova un'opinione favorevole e un'adesione degli investitori globali. Ed eccoci ritrovati. Allora, abbiamo fatto il resoconto della giornata europea del ministro dell'economia Padoan e peraltro, proprio per affrettarci a sentire anche il resoconto di Antonio Pollio Salimbeni, abbiamo tralasciato anche, adesso andremo alla giornata di borsa naturalmente, perché molti di voi sono assolutamente impazienti di sentire il racconto della giornata a Piazza Affari, migliori e peggiori titoli, però ci sono anche altre notizie oggi che abbiamo tralasciato. Chiaramente vogliamo farci mancare le novità su Alitalia? Non sia mai, perché oggi il Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane ha esaminato l'impostazione data dalla società alla partecipazione all'operazione Alitalia Etihad e Poste ha fatto sapere di condividerne la logica industriale e di mercato. Dopo appunto le perplessità su questi aspetti che erano state espresse nelle scorse giornate, oggi sul tema Alitalia registriamo anche una dichiarazione dell'amministratore delegato di Unicredit Federico Ghizzoni, che ha detto su Alitalia: da parte nostra, le banche, quello che ci è stato chiesto è stato negoziato, è stato concordato ed è sul tavolo, il nostro compito è finito, vedremo ora cosa succederà. Quanto invece ad un mal di pancia da parte degli azionisti per le condizioni avanzate da Poste per entrare, Ghizzoni ha replicato: io sto benissimo, ne siamo molto contenti per lui. C'è un'altra notizia curiosa che voglio leggervi, che scatenerà naturalmente i vostri commenti al 349-238-6666. C'è stato a Torino un maxi sequestro di azioni per un valore, pensate, di circa 110 milioni di euro nei confronti di un imprenditore torinese, appunto, che ora è in pensione. Un sequestro eseguito dalla Guardia di Finanza al termine di una indagine lunga e complessa che ha ricostruito la carriera di questo signore. A partire dagli anni 50, le Fiamme Gialle hanno scoperto un sistema di operazioni molto complesso che aveva consentito all'imprenditore di accumulare la ricchezza all'estero e poi riportarla in Italia attraverso gli scudi fiscali del 2003 e il 2009. Quindi questo signore ha evaso il fisco per tutti questi soldi e chissà quanti non sono stati ritrovati dagli anni 50 e ad oggi appunto si arriva a questo sequestro. Sono certa che in molti altri gli faranno compagnia e quindi speriamo, insomma, che le Fiamme Gialle possano mettere in luce altre situazioni di questo tipo, perché altrimenti, se non ce ne fossero di situazioni come queste, non avremmo avuto bisogno in questi ultimi anni di tutte queste operazioni appunto di rimpatrio di capitali e di scudi fiscali. Detto questo, adesso è tempo, finalmente, se sarete contenti, di sentire come è andato oggi in borsa. Allora, buonasera a Eleonora Micheli, Radio Cori, Il Sole 24 Ore. Buonasera. Allora, Eleonora, oggi finalmente raccontiamo di una buona giornata, più 2,16% sul FTSE MIB. La mattinata era partita bene, con un rimbalzo dopo i cali di ieri per tutti gli indici del vecchio continente. Poi vedo che Milano ha dato un'accelerata sulle finali. Perché? Sì, ha registrato la performance migliore, trascinata in alto soprattutto da alcune blue chips, e poi sono andate bene anche le azioni delle banche, che sappiamo contano molto a Piazza Affari. Banco Popolare ad esempio è salito di oltre il 2%, Intesa San Paolo dell'1,9%. Poi oggi sono andate molto bene diciamo blue chips di peso come Enel, che ha fatto il 4,38%, Eni più 2,44%. Allora, cominciamo con i singoli protagonisti. Aspetta che faccio un attimo anche il punto sugli altri indici, perché gli ascoltatori ce lo stanno chiedendo a gran voce. Parigi più 1,50, qua la sessione non è ancora terminata come a Francoforte, più 1,27, Londra in rialzo di un punto, Wall Street, ecco il quadro, adesso il Dow Jones rallenta un po', più 0,37%, Nasdaq più 0,78%, Standard & Poor's più 0,55%. Da segnalare oggi che sul mercato valutario anche si è registrata una performance interessante, perché la moneta unica europea si è portata ai minimi da febbraio sul dollaro a 1,34,68. Ma andiamo ai protagonisti della seduta. Sul finale, scatto di Enel, Eleonora, più 4,38%. Sì, diciamo oggi accendere i riflettori su Enel è stato più che altro uno studio di una banca d'affari. Si tratta di JP Morgan, che ha raccomandato l'acquisto delle azioni scommettendo sui nuovi manager e soprattutto sul nuovo amministratore delegato, che potrebbe dare un colpo d'accelerazione sul piano di ristrutturazione e anche sulle cessioni che ha in pole position già la società. Quindi su queste ipotesi JP Morgan raccomanda l'acquisto. Allora, dopo Enel, JP Morgan e appunto la raccomandazione d'acquisto per questi titoli, andiamo a Saipem, M più 4 15%, titolo che si è messo invece in luce immediatamente questa mattina già dalle prime battute. Sì, diciamo in questo caso è il Sole 24 Ore che ha messo il titolo sotto la lente. Infatti ha riferito che Eni ha allo studio la possibile cessione di Saipem, ricordiamo che detiene il 43% del capitale. Qualche novità, qualche indicazione potrebbe essere data il prossimo 31 di luglio, quando il consiglio di amministrazione di Eni si riunirà per approvare la semestrale, ma soprattutto anche per aggiornare il piano industriale. Pare che alla società siano già interessate la russa Rosneft e i gruppi norvegesi Subsea 7 e Seadrill. Tutto da vedere, il mercato intanto evidentemente ci crede, perché ha sospinto in alto tanto le azioni di Saipem più 4,15% quanto quelle della controllante Eni. Mm-hmm. Allora andiamo invece agli altri, un bel più 4% anche oggi lo incassa A2A, che se non ricordo male anche ieri in una seduta che era stata negativa per quasi tutte le società si era invece guadagnata sul finale forse il segno più, o comunque era andata meglio degli altri. Qui ci sono delle notizie, Leonora? Ma più che altro oggi sono andate bene tutte le utilities, tra l'altro è andata bene A2A, Snam, Terna, ma sono andate bene, è andato bene tutto il settore europeo. E comunque a proposito di quest'ultima, Snam e Terna, secondo fonti sarebbe imminente un accordo per la cessione del 35% di CDP Reti da parte della Cassa Depositi e Prestiti a un gruppo cinese, State Grid of China. Anche in questo caso è tutto da verificare, tutto da vedere, ma ovviamente ha riacceso i riflettori sul settore. Certo. Allora, tra gli altri titoli oggi a mettersi in evidenza abbiamo avuto STM più 3,87%, entro qualche ora iniziano a rassegnare risultati trimestrali colossi della tecnologia americana, per cui certamente STM sarà poi condizionata anche dall'andamento. Sì, STM darà i conti proprio domani mattina e nell'attesa i titoli sono andati su. Intanto nella notte ha dato i conti Texas Instrument, è andata oltre le attese degli analisti con un utile in crescita e quindi sembra un po' di buon auspicio per la stessa ST. Infatti di solito appunto STM comunica i risultati prima dell'apertura dei mercati, quindi domattina li conosceremo presto, prima delle 9. Andiamo a vedere gli altri titoli che sono andati bene. Atlantia, ex Autostrade più 3,82%, Terna più 3,36%, nel settore bancario già Leonora ci raccontava che oggi è andata bene la Popolare di Milano più 2,76%, Pirelli più 2,65%, bene Prismian più 2,55%, Mediolanum più 2,54%. Vediamo invece chi troviamo dall'altra parte della classifica. Mediaset meno 0,7%, Salvatore Ferragamo meno 0,59%. Nel settore bancario, Eleonora, cosa è successo oggi a Banca Carige? Sì, Banca Carige è stata sotto i riflettori, alla fine ha guadagnato il 2%, ma nel corso della seduta guadagnava ancora di più. Secondo indiscrezioni sarebbe per vendere gli asset assicurativi e un gruppo tedesco sarebbe interessato all'offerta. Anche in questo caso vedremo cosa succederà nei prossimi giorni, nelle prossime ore. Intanto il mercato ovviamente sta in guardia. Allora, altri titoli oggi che segnaliamo, Buzzi Unicem e Fiat attorno alla parità, però complessivamente appunto la seduta di Piazza Affari si conclude con soli 4 titoli in rosso. Campari fra quelli che hanno guadagnato meno, più 0,68%, Unicredit più 0,7%, Tozze più 0,8%, Monte dei Paschi più 0,9%. Abbiamo un caso da raccontare tra poco, che è quello del nuovo debutto a Piazza Affari, ma faremo un punto anche su questa stagione di IPO tra le più fortunate e le meno. Per quello che riguarda Eleonora invece il principale paniere, altri casi da segnalare? No, sul principale paniere, come hai detto tu, Mediaset è andata giù, si era messa in luce nei giorni scorsi, poi sicuramente fa paura anche la mossa che sta facendo la concorrente Sky, che stringe per creare Sky Europa, e quindi ovviamente questo ha indotto qualche ordine in vendita in più. Murdoch è molto attivo in questo periodo, avrebbe messo gli occhi anche sulla CNN, insomma vedremo se nel settore dell'editoria mondiale, dei media mondiali, succederà qualche cosa interessante prossimamente, se sarà un'estate calda da questo punto di vista. Grazie ad Eleonora Micheli, buona serata Eleonora. Buonasera. Filippo qua non ti riconosco, abbiamo sbagliato musica, abbiamo sbagliato colonna sonora, non ci siamo preparati adeguatamente, perché qui oggi, adesso mi aspetto qualcosa di meglio entro la fine di questo blocco, dobbiamo parlare di una società che si è quotata oggi in borsa. Per la verità, zitta zitta, non ha fatto un gran parlare di sé. Noi siamo grandi appassionate, io e l'ospite che adesso vi presenterò, di questa società, ma non vogliamo fare né insider trading né aggiotaggio, solamente ci piace frequentare questo locale a Milano, il Blue Note, è vero Valeria Novellini? Buonasera. E buonasera, eccoci. Sì, infatti oggi è il primo giorno di quotazione del Blue Note al mercato AIM, si tratta della 50esima società che si quota all'AIM e abbiamo raggiunto quest'anno già... diciamo o no, complessivamente? No, complessivamente, ecco. Però per l'intero anno sono attese forse anche ancora altre 10-15 matricole, ce ne sono già due che hanno presentato domanda di preammissione, che sono Tecno Investimenti, che è una baby Cerved in sostanza. Ah, sì, infatti, sì. Cerved si è quotata da poco, poi magari la ricordiamo. E l'altra invece pronta? E l'altra è Tech Value, che è una società di consulenza. Andiamo però a questo debutto di Blue Note, perché qua evidentemente le nostre visite al locale non hanno sortito alcun effetto, Valeria, dato che il titolo ha avuto una cattiva accoglienza da parte degli investitori, meno 4,81%. Che è successo? Come mai non è stata di gran successo questo collocamento? Beh, diciamo innanzitutto che si tratta di una società molto piccola. Al mercato AIM sono quotate società che hanno dimensioni molto diverse tra loro. Potrebbe essere anche che ha avuto due sole operazioni e il titolo è sceso. Molto molto possibile. Dicevo, società molto diverse tra di loro come dimensioni, si va da questa Blue Note, che non so neanche se sia la più piccola, ma certamente è molto piccola come dimensioni e anche come, non come flottante, perché il flottante è intorno al 40%, però se la società ha dimensioni ridotte è evidente che il flottante è comunque piccolo. E si va fino a società tipo Gala, che è una utility, che ha dimensioni paragonabili e anche superiori a quelle di molte società quotate sul mercato principale. Meno 4,81%, insomma, vedremo se recupererà qualcosa nelle prossime sedute. Tra l'altro non abbiamo mai, noi abbiamo fatto anche altre puntate con Valeria Novellini a Cuore Denari, ci siamo occupati proprio di recente, qualche settimana fa, di questa stagione molto brillante per quello che riguarda le IPO, e cioè le società appunto che si collocano sul mercato, che sbarcano in borsa. Per alcune società la quotazione è andata bene, per altre meno, altre hanno fatto marcia indietro, invece hanno deciso di non quotarsi più, di rinviare comunque l'operazione di debutto sul mercato. Tutto questo, Valeria, appunto per dire che proprio il segmento che tu indicavi, l'AIM, l'AIM diciamolo in italiano, è stato quello particolarmente vivace, e però questo mercato non è accessibile ai piccoli risparmiatori. Questo può essere anche un motivo per cui oggi Blue Note, magari qualche sostenitore avrebbe potuto, come dire, aiutare, no? Adesso il debutto. Oggi i sostenitori possono entrare. Il problema è che non sono accessibili queste IPO ai piccoli investitori, al retail, in sede appunto di IPO generalmente. Per cui. Ah, quindi domani potremmo comprarla? Blue anche Note. Oggi si poteva volendo. Per cui il problema abbastanza curioso è che tutte queste AIM, con più o meno successo in termini di andamento delle quotazioni, però comunque vengono costantemente sottoscritte appunto da investitori istituzionali. È vero che non hanno in genere grandi dimensioni, mentre però questi stessi istituzionali hanno rifiutato di sottoscrivere alcune società che volevano quotarsi al mercato telematico recentemente, quindi c'è un po' di contraddizione sul comportamento. Anche tra l'altro questi istituzionali spesso hanno detto che non erano propensi ad acquistare queste nuove IPO perché il mercato era girato. Se però il mercato è girato anche l'AIM. E quando diciamo girato, possiamo interpretare questo concetto da molti punti di vista. Oggi peraltro Raffaele Ierusalmi, l'amministratore delegato di Borsa Italiana, ha detto che per AIM, per l'AIM, è tempo di migliorare la trasparenza. Forse si riferiva proprio anche a questi limiti che tu indicavi. Sicuramente Valeria. A questo, ma anche a un altro fattore. Va ricordato che quando una società si quota al mercato telematico azionario deve presentare un prospetto informativo, peraltro piuttosto consistente, nel quale sono indicate tutta una serie di informazioni. Questo prospetto deve essere visto e vagliato da Consob e da Borsa Italiana, cosa che invece non avviene per i documenti di ammissione delle società che si quotano all'AIM. Quindi non hanno il preventivo assenso di Consob e di Borsa Italiana, perché l'AIM di fatto è considerato un mercato non regolamentato. Certo. Allora, a proposito di IPO, adesso per il momento non parliamo di quelle che sono andate bene, particolarmente il debutto è stato vincente per Fineco, non lo è stato altrettanto per Fincantieri, ma parliamo di quelle due società che il 10 e l'11 luglio hanno fatto questa marcia indietro, Rottafarm e Sisal. È stata la questione di un mercato girato, come tu lo descrivevi prima, Valeria, o ci sono state anche altre ragioni che hanno portato i vertici di queste due aziende a, per il momento credo, rinviare la quotazione in borsa? Allora, come dicevo prima, anche se al mercato telematico azionario anche il pubblico retail può sottoscrivere le azioni, è ovvio che la stragrande maggioranza sono comunque destinate agli investitori istituzionali. Se questi per qualsiasi motivo non sottoscrivono, l'operazione in genere non va a buon fine. Per Fincantieri si è riusciti a supplire almeno in parte con la domanda del pubblico retail, a cui comunque peraltro l'operazione era anche in parte destinata, come si vedeva dalla significativa pubblicità che veniva fatta sui mezzi di informazione, dal fatto che comunque Fincantieri è una società conosciuta per le sue navi. Quante ce ne hanno dette, anche perché ci siamo occupati noi di quel collocamento e contestualmente andava in onda la pubblicità in radio. D'altronde qualche volta l'informazione fa un po' pugni anche con questo, facciamo fatica. Detto questo, appunto, quindi abbiamo detto che le motivazioni, per quanto riguarda Sisal, va ricordato che era un IPO ammessa tra virgolette con riserva, nel senso che la società presenta un elevatissimo livello di indebitamento, inoltre ha chiuso gli ultimi tre esercizi in perdita ed anche il 2014 hanno già affermato si chiuderà in perdita, inoltre ha il patrimonio netto negativo. Era stata quindi ammessa con riserva, nel senso che avrebbe dovuto raccogliere un minimo determinato di mezzi nuovi finanziari per poter sufficientemente ridurre l'indebitamento. Ma perché allora una società, nonostante abbia ben chiaro naturalmente quello che accade all'interno del proprio bilancio, ci prova lo stesso? Cioè riceve addirittura una, come dire, un'autorizzazione con riserva alla quotazione. Non provoca anche un problema reputazionale tutto ciò? Ma diciamo che secondo me forse sarebbe stato più auspicabile che un'operazione di questo tipo, dati gli elevati rischi, fosse stata destinata ai soli investitori istituzionali. Ci sono offerte anche al mercato telematico che sono state destinate solo a questi. Poi il problema di Sisal è che Sisal è concessionaria di giochi pubblici. Questo significa che ha la concessione in esclusiva per alcuni giochi, tipo il Superenalotto e il Win for Life, e non esclusiva comunque per altri giochi legali. Ciò comporta che se per caso la società dovesse andare in default, in pratica dovrebbe essere bandita nuovamente un'asta per l'assegnazione di queste concessioni. Questa asta, aperta a operatori non solo italiani ma sicuramente almeno europei, non è quello. Il problema è che avrebbe tempi non immediati e siccome chiaramente questi giochi legali danno luogo a introiti anche per l'amministrazione statale, è evidente che si tratta di una situazione piuttosto delicata e complessa. Direi, su Rottafarm mi hai detto tutto? No, Rottafarm è veramente un peccato, perché è una società con bilanci positivi ed anche con buone prospettive. Tra l'altro la cosa curiosa è che Moody's, noi sappiamo che le società di rating non amano l'Italia. E noi qualche volta non le amiamo neanche noi, comunque, ecco, così imparano. Sì, ma in questo caso, e stiamo parlando di una società appunto di rating, cioè Moody's, tempo fa, prima della quotazione, aveva detto che dopo la quotazione avrebbe alzato di un paio di gradini il rating di Rottafarm proprio per il fatto che la gran parte degli introiti erano comunque destinati al rafforzamento patrimoniale. Qui non c'erano problemi di patrimoni negativi o altro. Bene, Moody's qualche giorno fa, nonostante Rotta Farm non si sia quotata, ha ugualmente elevato l'outlook del rating di Rotta Farm. Quindi positivo. Un segnale di incoraggiamento alla quotazione. Mi viene da ridere però rispetto alla motivazione data alla luce della sfavorevole situazione del mercato. Ma non è una novità di questo momento. D'altronde le borse hanno corso tanto, poi ogni tanto si prendono anche delle pause. C'è qualcosa di più rispetto a queste motivazioni che le società danno, Valeria? Ma la motivazione della condizione sfavorevole del mercato non è tanto quella della società stessa, ma degli investitori istituzionali, alcuni dei quali, ho letto, addirittura non hanno voluto neanche vedere il dossier della società, nemmeno verificare se andasse bene o male, proprio per il fatto che il mercato aveva girato in negativo. E questo onestamente non mi sembra grande soluzione. Come sono schizzinosi. Detto questo, cara la mia Valeria, il 24 giugno si è quotata Cerved, in quei giorni là Fincantieri, il 2 luglio Fineco, il 3 luglio Fincantieri, se non mi ricordo male. Il 3, esatto, appunto. Quanto avevamo parlato anche con l'amministratore delegato di Borsa Italiana di affollamento che potesse in qualche maniera anche cannibalizzare, provocare una cannibalizzazione reciproca appunto di questi collocamenti. Forse ci starà tutto questo dietro al rinvio di Rotta Farm e Sisal. Rotta Farm e Sisal effettivamente anche loro, come Fineco e Fincantieri, si sovrappone. Non ci fossero state le altre operazioni, secondo te, però, sarebbero andate avanti? Però secondo me Rotta Farm è proprio incappata in un periodo di sfiducia collettiva, perché non era una concorrente Sisal, esatto. Vista la situazione molto diversa dei bilanci e delle prospettive. Mm-mm. Fincantieri ha recuperato qualcosa? Fincantieri è rimasta sostanzialmente stabile, e questo comunque già visti i tempi non è negativo. Esatto. La cosa positiva comunque è che anche se la società ha dichiarato che per il prossimo triennio non pagherà dividendi, anche se dovrebbe conseguire utili, però per gli investitori retail ci sarà comunque la bonus share dopo 12 mesi e questo comunque costituirà una remunerazione. E la bonus share, ricordiamo che è sostanzialmente un pacchetto di azioni che viene riconosciuto appunto a chi non esce prima dal capitale, l'ho detta proprio in maniera in questo caso rude. Un'azione gratis ogni 20. Perfetto. Fineco invece come si sta comportando? Fineco è salita, è delle ultime IPO quella che si è comportata meglio, era stata quella anche meglio accolta dal mercato, è una società ovviamente molto conosciuta, con un buon andamento storico e conosciuta sia dagli investitori che dal pubblico retail, quindi diciamo era forse quella più facile da essere conosciuta ed apprezzata dal mercato. Benissimo. Allora, quest'estate secondo te non ci dovrebbe presentare altre operazioni e ne riparliamo in autunno? La prossima sulla rampa di lancio imminente qual è? Dunque, oltre alle due IM di cui vi ho parlato, la prossima in rampa di lancio, si parla ovviamente autunno, è Favini. Che ha già presentato domanda di ammissione al mercato telematico segmento Star. E si tratta di una società attiva nella creazione di packaging di lusso e ecopelle e stampi per materiali sintetici. Insomma, tutto questo per raccontarvi che c'è vivacità, tante aziendine anche carine che vale la pena tenere sotto sé. Senti un po' che musichina che ci ha messo Filippo Aureggi. Questo per celebrare la quotazione di Blue Note, che purtroppo però archivia la sua prima seduta in borsa con un calo del 4,8%. Ci ritrovati in diretta con Focus Economia, ancora una buona serata a tutti da Deborah Rosciani. Ritorniamo alle questioni economiche del nostro paese e a quei settori che stanno ancora vivendo una fase di crisi per certi versi drammatica, perché davvero il settore dell'edilizia non riesce a risollevarsi in Italia. Pensate che nel 2008, questi dati li abbiamo dati più volte, il comparto ha perso qualcosa come 58 miliardi di fatturato, sono oltre 70.000 le imprese che hanno chiuso. e che sono anche in procinto di farlo con una sottrazione di credito alle aziende per oltre 116 miliardi di euro. Gli investimenti nel settore delle costruzioni in questi anni di crisi, quindi ribadiamo dal 2008, da quando è deflagrata con la crisi Lehman Brothers, anche se i segnali erano molto forti da un anno e mezzo almeno, quindi parliamo già dal 2007, gli investimenti in costruzione, dicevo, si sono dimezzati, meno 47%. Le risorse per le infrastrutture sono state tagliate del 66%, cifre che conosce molto bene Paolo Buzzetti, presidente dell'ANCE, l'Associazione dei Costruttori Italiani. Presidente, buonasera. Buonasera a lei, buonasera a tutti. Allora, oggi voi avete tenuto a Roma la vostra assemblea annuale e lei è tornato ancora una volta a lanciare l'allarme sulla situazione dell'edilizia e lo ha fatto con toni questa volta di nuovo molto duri e un po' più originali del solito, perché lei ha detto: siamo in una situazione così difficile e drammatica che viene spontaneo chiederci se non sia il caso di chiedere al governo che di emettere un decreto per, come dire, formalizzare in questo modo la chiusura delle nostre imprese con il danno minore possibile per i nostri dipendenti. Presidente. Sì, questo è di chiedere un decreto per poter chiudere le aziende senza stare 20 anni in discussioni con il fisco e mettere in difficoltà i dipendenti. Io naturalmente non spero in questa soluzione per le imprese che sono rimaste attive, ma apparentemente non ci sono speranze. C'era stata una leggera speranza di ripartenza ai primi mesi dell'anno, ma poi le cose sono riandate assolutamente male. È un problema di finanza pubblica legato alle politiche sbagliate di austerità europee, che speriamo che finalmente, stiamo vedendo, sono in discussione in Europa e che possano cambiare, ma nell'attesa è il drammatico famoso patto di stabilità interno che impedisce, laddove anche ci sono delle risorse, agli enti locali di spenderle e quindi non si pagano le imprese, non si riescono a fare i lavori. E dal punto di vista poi dell'attività della casa, che è anche l'altro aspetto importante dell'edilizia, sia che sia di riqualificazione che di edificazione e via dicendo, la tassazione sulla casa ha raggiunto un 200% in più negli ultimi 3 anni e ha ribloccato sostanzialmente il settore, anche se ci sono di nuovo prodotti di mutui positivi per accordi tra Cassa Depositi e Prestiti e ABI, anche se la ristrutturazione grazie agli incentivi è andata un po' meglio, ma una decisa politica di ripartenza che peraltro il governo sta annunciando e sulla quale si sta obiettivamente impegnando, però deve ripartire subito. Piano Marshall per le opere pubbliche e sulla casa diamo una tassazione definitiva e non continuiamo con questo bancomat continuo, perché non andiamo da nessuna parte. E infatti volevo proprio ricordarlo io che lei oggi è tornato a riutilizzare questa immagine che è stata più volte appunto usata per descrivere il peso della tassazione appunto sul settore edile, che chiaramente compromette la ripartenza del settore. Le tasse sono un vero e proprio macigno. Quanto sono cresciute complessivamente? Voi fate una stima del 200%. Sì, guardi, sulla seconda casa, come sappiamo tutti, dove non si affitta, del 18%, ma poi è lei metta conto, sui beni strumentali di imprese i capannoni si è raddoppiato, adesso arriva la TASI oltre all'IMU. Lei, adesso le faccio esempio più banale, un terreno per realizzare, prima c'era l'IMU, adesso c'è l'IMU più la TASI, cioè siamo, diciamo, piove sul bagnato. E tutto questo, teniamo presente che l'economia è noto l'aereo Italia ha due motori, uno l'export e uno il mercato interno. Il mercato interno è l'edilizia, lo sta andando in difficoltà anche in Germania, notizia di oggi, sia l'edilizia sia il mercato interno. Sì. C'è poco da fare, io non so cosa bisogna aspettare per capire che al motore dell'edilizia deve essere fatto ripartire con decisione, sia sulle opere pubbliche e sia naturalmente sul discorso della casa. Io ripeto, si sta cercando di fare molto, ma bisogna affrettare i piani sulle scuole, sul dissesto idrogeologico. Ecco, infatti volevo chiederle cosa, se lei potesse scriverlo, questo piano Marshall, quali punti indicherebbe? Io, se potessi chiedere piano Marshall, direi lei ce l'ha già pronto 70, nel cassetto, lo immaginiamo. 70 miliardi da spendere nel giro di un anno, non darei più retta a questa storia del 3% di deficit che, come abbiamo visto in questi giorni, se l'ha inventato un incolpevole funzionario francese 20 anni fa ed è diventato un dogma assoluto senza alcuna costruzione economica dietro. Direi che voglio sapere che ci fa l'Europa se spendiamo per rimettere a posto le nostre scuole, per mantenere il territorio, per prevenire i disastri con vittime del dissesto del territorio, se facciamo manutenzione delle nostre città. Voglio sapere cosa ci possono dire. Quindi il piano Marshall lo lancerei con grande decisione, naturalmente facendo tutte gare con rispetto delle regole, farei un grande salto di qualità nel paese, farei dei grandi piani nazionali. Devo dire che ci si sta lavorando assolutamente a livello di Palazzo Chigi, siamo stati anche consultati, lo sforzo c'è tutto, bisogna buttare il cuore oltre l'ostacolo e partire. Direi che siamo riusciti, se posso, a mettere d'accordo i keynesiani e i monetaristi, che sono le due scuole di economia, cioè qualcuno dice che bisogna usare risorse pubbliche per far ripartire il mercato e l'occupazione, invece i monetaristi dicono che bisogna invece abbassare le tasse. Bene, in Italia bisogna fare tutte e due. Ecco qua. Molto bene. E poi, se dalle banche arrivasse anche un aiuto, voi sareste contenti. Lei oggi ha detto: dalle banche non sta arrivando neanche un soldo sulle nuove iniziative. Di cosa stava parlando? Stavo parlando della incredibile affermazione del governatore Draghi, che ha detto che finalmente darà 1.000 miliardi annunciato di aiuto per la produttività e far ripartire l'industria, però poi subito dopo ha detto: ma non all'edilizia. La domanda, scusi, perché non all'edilizia? Perché c'è paura della bolla immobiliare. Dove il governatore Draghi ha visto la bolla immobiliare, mi piacerebbe saperlo, ecco, effettivamente. Perché non c'è da nessuna parte, quindi è un'inspiegabile, penso, preoccupazione legata a pericoli, secondo me quasi inesistenti, di inflazione, mentre il vero pericolo è la deflazione, di inflazione. Penso in Germania, non voglio dire, dove sicuramente è stato fatto di più per l'edilizia, dove sono tanti, e sono contento, proprietari di casa in più, e non so, perché la preoccupazione è per Londra, ma lì c'è la banca inglese che non dipende dalla banca europea. Quindi questa affermazione, diciamo, fa sì che sia un segnale ulteriore per le banche, che devono tornare a dare finanza sulle nuove iniziative, altrimenti non riusciamo ad andare avanti. Quello è vero, Presidente, la bolla non c'è, su questo condividiamo il suo punto di vista, però c'è un grosso problema di invenduti immobiliari in Italia. Sì, questo è vero. Tra l'altro avevamo sperato all'inizio dell'anno, come le dicevo, che c'era stato un inizio di ripresa grazie ai prodotti sui mutui che le banche hanno messo in campo per i cittadini, a una serie di iniziative che va riconosciuto, che sono state prese per le fasce più deboli, per l'affitto, e questo dei mutui aveva riportato una crescita delle compravendite, una leggera ripresa. Purtroppo i fatti generali hanno riprodotto una terribile gelata e ci siamo fermati. L'invenduto in parte c'è, ma si sta lavorando con grande attenzione nell'utilizzarlo, ad esempio per il cosiddetto housing sociale. Sono interessate ovviamente a questo le imprese, ma anche le banche, e per intervenire comunque con criterio adesso troppo complicato da spiegare, di fondi che potrebbero cercare di assorbirlo, ma la verità vera è che una domanda esiste, già i mutui sono una cosa importante e gli interventi in questo senso delle banche sono state positive. Se riprende la fiducia e l'economia riparte, io penso che il problema dell'invenduto non sia così sostanziale come ci appare, ma si potrebbe assolutamente smaltire. Quello che serve sono l'assistenza della finanziaria delle banche, ad esempio per affrontare il grande tema della riqualificazione delle nostre città, degli interventi anche sull'esistente, degli interventi senza consumo di nuovo territorio, dove però serve la finanza, se non c'è ovviamente non si riesce a mettere in moto. C'è anche un grosso tema legato alle procedure esecutive, ma questo è un tema che magari non è il caso di affrontare con lei, Presidente. Detto questo, lei prima, parlando di questo piano Marshall, ha detto chiaramente, noi lo vediamo con grande chiarezza nella nostra testa, deve essere accompagnato anche naturalmente da iniziative che vengano mandate avanti in una cornice di legalità molto stringente. Per questo lei oggi ha ricordato come l'Assemblea dell'ANCI abbia approvato la riforma del codice etico dell'Associazione dei Costruttori Italiani. Quali sono le norme di questo codice, Presidente? Su cosa fa leva? Abbiamo fatto un passo avanti molto impegnativo, dopo ampio dibattito, di stringere, diciamo, sull'etica, per dare una mano forte, perché noi vogliamo partecipare, le imprese hanno una forte esigenza di superare questo problema. problema di corruzione, che sappiamo che è un problema anche culturale, diffuso in Italia in molti settori, ma adesso noi parliamo di noi, voglio dire, in prima istanza abbiamo detto che cosa? Che laddove ci sia una condanna di primo grado c'è un automatismo nel lasciare la carica, ma anche laddove ci sono, insomma, condizioni oggettive eclatanti che possono rendere su chi fa rappresentanza il problema, ovviamente, di farla con la massima serenità, diciamo, ci sono momenti di sospensione e di ritiro dalla carica stessa. Cioè abbiamo abbandonato la posizione, pur correttissima, ma stiamo parlando di rappresentanza associativa, di un garantismo che diceva, ricordiamoci, i famosi gradi di giudizio, quindi non prima del secondo e casomai nel terzo. È una stretta fortissima, perché naturalmente c'è presunzione correttissima di innocenza fino a tutti i gradi di giudizio che la giustizia italiana ci consente, ma è la voglia di un segnale di comportamento etico. Avremo poi una carta di valori che facciamo sottoscrivere alle aziende, insomma vogliamo dare un forte contributo anche parlando a noi stessi, di cercare di dare una svolta e di capire che ci vogliono i criteri della sana concorrenza e che bisogna assolutamente estirpare il problema della corruzione. Ho chiesto a Paolo Buzzetti, presidente dell'ANCE, di rimanere ancora un paio di minuti con noi, perché volevo sottoporgli alcune considerazioni dei nostri ascoltatori sul tema dell'andamento del mercato immobiliare italiano. Per qualcuno invece, presidente, la bolla c'era e come, e si è sgonfiata, a giudicare chiaramente da come in alcune grandi città i prezzi stanno tornando a scendere. L'invenduto, dicono alcuni ascoltatori, ne è la prova. Altri ancora dicono: sì, andate voi in banca a chiedere un mutuo e vedrete quanto ve lo danno. Un ascoltatore ci racconta addirittura che ha chiesto 49.000 euro e Intesa San Paolo lo ha salutato con grande cortesia e naturalmente non gli ha dato questi soldi. Quali soldi devono dare le banche? Segnala poi un ascoltatore, anche questo è un aspetto che noi condividiamo, perché ritornare a dare i soldi alle fasce più deboli, quelle che non si possono comprare casa perché non hanno grandi anticipi naturalmente da poter dare, affossa ulteriormente le sofferenze. Presidente, qua chiaramente i punti di vista sono molti. No, ma sia ben inteso, innanzitutto sulla bolla immobiliare, che in fascia città sono scesi fino al 20%, in qualche caso anche di più i prezzi, è verissimo. La bolla si intende quando improvvisamente scendono bruscamente in pochissimo tempo, come è stato in Spagna, negli Stati Uniti, eccetera, i prezzi. Quando scendono negli anni, come è accaduto da noi, e facendo differenza tra centro città e zone periferiche, non si chiama bolla, ma sono d'accordissimo, i prezzi sono scesi senza alcun dubbio. Il fatto quindi che però si giustifichi non dare soldi all'edilizia, lì è tutto un altro discorso economico di tipo differente. Dal punto di vista dei mutui, oggettivamente sono ritornati sul mercato dei prodotti diciamo un po' più precrisi nei tassi di interesse e nelle garanzie, che erano arrivate a garanzie folli, si chiedevano sul lavoro perché la precarietà del lavoro aveva reso impossibile averli. È chiaro che non dubito che capitino situazioni come quelle che sono state raccontate, però ci sono pubblicità e posizioni delle banche e poi abbiamo riscontrato oggettivamente prodotti differentemente da prima. Dovete sapere che c'è una garanzia di Cassa Depositi e Prestiti che dà garanzia a diverse banche che hanno aderito, praticamente quasi tutte, per fornire mutui in condizioni diverse. Quindi sia ben chiaro che il cliente deve andare a dire questo, deve dire: io so che i mutui sono cambiati, e deve pretendere di vedere una situazione differente. Faremo allora una battaglia di questo, è perché, voglio dire, le banche si sono impegnate e questi prodotti sono assolutamente sul mercato. Infine il discorso, però, sa che com'è, che con la crisi del lavoro magari una famiglia è anche un po' demotivata ad andare in banca a chiedere di impegnarsi per così tanti anni, perché adesso c'è forse anche questo problema, a prescindere dal fatto che una famiglia abbia o meno l'informazione che esistono mutui garantiti dalla Cassa Depositi e Prestiti. Presidente, io la devo salutare perché fra 5 minuti chiudo un altro ospite, ma torneremo con lei e le prometto che magari con lei faremo una battaglia proprio per sensibilizzare di nuovo, ci siamo già andati tante volte su questo tema in passato, sull'erogazione dei mutui naturalmente ragionevoli, perché noi non siamo poi neanche tanto convinti del fatto che vadano bene i mutui al 100%, perché sennò ritorniamo alla situazione del 2008, quando i tassi interbancari hanno preso il volo e le famiglie non ce la facevano. Lei che dice? 5 no, secondi. Io sono d'accordo, ma non sono proprio al 100%. Siamo sicuri che li danno molto meno, questo è fuori discussione. Benissimo, grazie Presidente Buzzetti, buon lavoro e in bocca al lupo per tutto. Nicolò, grazie, grazie. Eccoci qua, che cambiamo adesso argomento, 5 minuti per anticiparvi un tema del quale peraltro domattina anche Alessandro Milan si occuperà, appunto, a 24 mattino. Allora, cosa sta succedendo? Che le associazioni di categoria degli albergatori romagnoli hanno deciso di fare causa ai meteorologi, in particolar modo quelli dei siti commerciali, e questo perché per prendere una posizione netta e chiara a favore di una corretta informazione meteo per il turista, e questo si fa attraverso un'azione legale. Alessandro Giorgetti, presidente di Federalberghi Emilia Romagna, buonasera. Buonasera. 5 minuti tutti per lei per raccontarci di quello che sta accadendo. Vi siete arrabbiati? Come mai? Insomma, sì, abbiamo visto, diciamo, che il tempo non è stato granché, ma avevano fatto delle previsioni così terribili. Io forse mi sono persa un po' di cose, perché sono stata sull'Adriatico la scorsa settimana e tutto quello che è successo più o meno lo sapevo. Certo. No, diciamo che il problema non è un problema che nasce oggi, ma che si concretizza forse in un'azione domani, nel senso che è un po' da tempo che alcune previsioni, come dice autorevolmente i meteorologi, è un problema di probabilità, quindi non viene comunicato in una certa maniera, ma l'utilizzo in maniera cospicua dei smartphone, dove ci sono i siti che danno il tempo delle varie località, possono, come dire, se non correttamente dati, creare dei danni economici. Questa è la situazione reale. Ci vuole più trasparenza, cioè nel momento in cui, se vi è una situazione in cui cambia il clima o cambia la situazione, basterebbe mettere la simbologia corretta. Ecco. Questo sarebbe trasparenza, una comunicazione normale. Anche magari non mettere che è una settimana bella, poi magari uno viene, c'è le nuvole. Allora, senta, presidente, voi domani farete questa conferenza stampa proprio per illustrare queste linee di questa battaglia contro il meteoterrorismo, ma avete intenzione di denunciarli davvero? Meteoterrorismo non l'abbiamo detto, probabilmente sì, ci siamo inventati noi giornalisti. Ecco. È la sintesi che in Italia alcune volte taglia con l'accetta un'avvertenza, cioè è un'avvertenza, un dialogo per il miglioramento di una comunicazione. Se la comunicazione diventa un fattore importante, come è importante, se viene data magari in maniera distorta oppure non elaborata e ristrutturata durante il passaggio delle ore, evidentemente si comunica qualcosa di sbagliato. In una situazione economica grave, la gente, pur conoscendo le zone per prezzo e qualità, mettono la qualità anche il tempo. No, anche perché stavo pensando appunto a come si traducesse questo danno nei vostri confronti, perché guardi, io nella mia settimana di ferie che ho preso settimana scorsa, sono andata nelle Marche dove c'è la mia famiglia, me la sono presa comunque a marzo, avevo deciso di farla, per cui non è stato il maltempo che ha condizionato le mie scelte. Quando è che vi sentite danneggiati? Purtroppo lei è un caso atipico italiano, perché probabilmente ha un lavoro che richiede una certa programmazione, le devo prendere fino a dicembre. La maggior parte della vendita negli ultimi 8-10 anni è sottodata, cioè nel giro dai 7 ai 3 giorni prima dell'arrivo. Per quanto riguarda il mercato italiano, per quanto riguarda il mercato straniero, ha dei tempi molto più lunghi, ma il mercato italiano ha anche questo tipo di soluzioni, che all'ultimo momento, vuoi per campagna pubblicitaria, vuoi per giornali, vuoi per l'utilizzo dei media, compresi smartphone, si muovono all'ultimo momento, quindi di sapere di avere in una certa zona del tempo, brutto tempo, può far scegliere da una parte o l'altra. È un problema che riguarda solo l'Emilia Romagna, perché ha riguardato anche la Toscana, la Liguria. Non è che il pianto greco, che è una situazione che, quando probabilmente c'è poca economia che gira, è anche un, come dire, certo, un piccolo alitario. Vi sentite un po' bersagliati? Certo, abbiamo capito. Presidente, quindi cosa farete? Domani mattina denunciate questa situazione, dite basta con questa previsione. E faremo anche delle azioni, perché c'è la mia presidente di Rimini, giustamente, che avrà il timone di questo tipo di iniziativa, quindi lascio a lei dire, per non bruciare anche. Però questi meteorologi che sono diventati anche così popolari, non ce li bastonate troppo. Tra l'altro, a proposito di Rimini, la presidente degli albergatori di Rimini sarà domattina ospite di Alessandro Milan, e proprio l'Associazione Italiana Albergatori ipotizza fra 5 e 10 mila euro al giorno di danni ad un albergo per una previsione sbagliata, per cui poveri anche loro. Hanno ragione. Grazie, presidente, in bocca al lupo per tutta questa estate. puntate naturalmente. Credo che abbiamo terminato, sì, perché siamo alle 18:29. Grazie a Filippo Aureggi per l'assistenza tecnica, Barbara Bianchi per l'assistenza e la collaborazione in redazione. Io torno domani a Cuore e Denari, ma domani sera con voi torna Sebastiano Barisoni. Buona giornata, buona serata. Radio 24. La passione si sente.